Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Tutto bene? Bene, grazie. Tu pronto? Prontissimo. Da che cosa incominciamo? Partiamo dall'editing del genoma, quindi da CRISPR, che funziona come un coltellino svizzero di precisione. E poi informazione breve ma estremamente importante per tutte le aziende che andranno a SPS Parma: c'è un servizio particolarmente utile di consulenza. E poi vi portiamo nelle profondità oceaniche con la signora degli abissi. Via allora! E l'uomo creò l'uomo. CRISPR è la rivoluzione dell'editing genomico. E questo è il titolo del libro di Anna Meldolesi, edito da Bollati Boringhieri. Un libro molto interessante che ci accompagna, ci catapulta, ci introduce nell'era di CRISPR. Federico, e noi abbiamo Anna Meldolesi, no? Ospite in collegamento con noi. Anna Meldolesi, ciao. Eccomi qua, ciao. Buonasera. Collega, ci diamo del tuo, ovviamente, scrivi tanti articoli, adesso hai scritto questo libro, va bene, incominciamo, perché tu Simona hai dato questo acronimo tremendo, CRISPR, traducilo, Anna. Allora, CRISPR è un acronimo inglese che si riferisce a delle sequenze di DNA ripetute, brevi palindrome, raggruppate e regolarmente interspaziate, per cui è una sigla che rimanda a un'espressione difficilissima, però in realtà invece stiamo parlando di una tecnologia che può essere anche spiegata in maniera molto semplice. Nel senso che si tratta di una tecnologia di modificazione genetica di precisione che consente di andare a modificare nel DNA anche le singole lettere, quindi con una precisione addirittura puntiforme. Tant'è vero che non si parla più di ingegneria genetica, ma di editing genetico, intendendo con l'editing quell'attività che corrisponde alla correzione delle bozze in ambiente editoriale. Sì, perché praticamente si può fare con il DNA quello che facciamo con un documento di testo, cioè trovare, sostituire per correggere. Quindi in questo caso è come se avessimo a disposizione delle forbici molecolari capaci di tagliare il DNA proprio dove vogliamo. Esattamente, andare a trovare quelli che in questa similitudine sono i refusi sul DNA e correggerli automaticamente, come se fosse la funzione trova e sostituisci di Word. Tranne che però, ecco, qui cominciano a venire fuori le tante querelle che ci sono intorno a questa cosa, posso entrare e correggere oppure posso entrare e cambiare, ci metto qualcos'altro. Sì, si può usare in diversi modi, si può modificare una singola lettera in maniera casuale, oppure si può dare uno stampo per cui la cellula inserisce proprio la correzione desiderata nel punto desiderato, oppure si può in una terza modalità fornire proprio un tratto di DNA strano da integrare. Nei primi due casi si ottiene un prodotto che non è transgenico. Si tratta di un prodotto con una mutazione che è indistinguibile da una mutazione naturale. E invece nel terzo caso si ottiene un prodotto transgenico. Senti, ma parliamo di una tecnologia che tra l'altro Science nel 2015 ha definito come appunto l'innovazione dell'anno, una vera e propria svolta scientifica. Diciamo, quindi abbiamo a che fare con una tecnologia dalle applicazioni trasversali. Sì, assolutamente, è utilissima per la scienza di base, per concretizzare finalmente l'era post-genomica, cioè abbiamo la sequenza dei genomi ma dobbiamo capire cosa fanno i geni, per questo CRISPR è utilissima, ma è utile anche per la ricerca applicata, dalla produzione alimentare, quindi dal food al pharma, diciamo alle terapie geniche, davvero i settori di applicazione sono tantissimi. Sì, certo, per esempio in questa strada di una medicina che sappia interpretare molto di più il soggetto singolo con la sua specificità, è chiaro che potendo lavorare in questo modo sul farmaco dal punto di vista del rapporto col DNA si potrebbe ottenere questa medicina di precisione che dovrebbe dare grossi risultati. Diciamo che proprio per questa sua versatilità la tecnologia CRISPR è stata adottata da migliaia di laboratori in tutto il mondo nel giro di pochissimi anni, davvero una velocità di adozione che non ha precedenti nel mondo delle biotecnologie, e quindi dall'oncologia diciamo agli xenotrapianti, e le, passando per la medicina di precisione, come giustamente dicevi tu, diciamo uno strumento al servizio della ricerca che consente di fare cose che prima non si potevano fare, perché ad esempio consente di modificare molti geni contemporaneamente e velocizza tantissimo i tempi della ricerca. Per un progetto che prima magari richiedeva 10 anni di lavoro a un consorzio internazionale, adesso con questo avanzamento tecnologico basta un singolo laboratorio e pochi mesi di ricerca. Senti, a proposito, l'editing genomico quindi velocizza il tutto e tra l'altro tecnicamente è anche molto semplice, ma è molto semplice solo per gli addetti ai lavori, perché comunque sappiamo che ci sono addirittura disponibili in vendita online dei kit per editare il DNA. Se ne sta discutendo ultimamente, anche Science ha dedicato un articolo a questo tema. Sì, infatti, questo è un equivoco in cui si cade facilmente. Quando si dice che CRISPR è una tecnica facilissima e poco costosa, quindi alla portata di tutti, ci si fa l'idea che il mio vicino di casa possa ordinare il kit e mettersi a editare quello che vuole nella cucina di casa. Ovviamente non è così. È facile da usare per chi ha competenze di biologia. Un ricercatore laureato nel giro di un mese è in grado di utilizzarla molto bene, mentre c'erano altre tecnologie precedenti che richiedevano un training lunghissimo. Questo ricercatore di Science, Jon Cohen, si è proprio cimentato con un progetto con CRISPR proprio per vedere, ma è vero o no che chiunque può riuscire a utilizzare CRISPR, a crispare quello che vuole? È stato molto divertente perché questo giornalista bravissimo, uno dei migliori giornalisti scientifici del mondo, si è messo lì con l'assistenza di un ricercatore e alla fine il suo progetto non si è realizzato, insomma, per cui ha titolato "Ho fallito miseramente". Questo dovrebbe da un certo punto di vista tranquillizzare, nel senso che è una tecnologia molto versatile, potente, semplice, facile, ma comunque possiamo stare sicuri che verrà utilizzata da mani esperte, ecco. Senti Anna, c'è un'ultima cosa che volevamo chiederti, siccome qui di questi tempi bisogna stare molto attenti a come generano informazioni, ma in queste attività CRISP in cucina si può parlare di OGM oppure qui c'è un salto che non bisogna fare? Esistono dei kit che vengono venduti da una piccola società americana, sì, che sono dei kit giocattolo e che in alcuni casi fanno fare ingegneria genetica e in qualche caso fanno fare editing con CRISPR, per cui dipende da quello che si fa. Il kit per CRISPR non fa fare assolutamente OGM, fa una correzione di una mutazione di una base, per cui alla fine si ha un microorganismo mutante come quelli che si potrebbero appunto ottenere naturalmente in natura. La definizione di OGM, una definizione nell'accezione comune, comporta l'inserzione di un gene estraneo prelevato da un'altra specie. Ecco, questo non è assolutamente il caso. Per cui i kit di cui si sente parlare non producono OGM. Producono soltanto una piccola mutazione che peraltro è molto comune in natura, quindi non è il caso di spaventarsi. E l'uomo creò l'uomo, Bollatti Boringhieri, Anna Meldolesi, che salutiamo, è stata qui con noi, è l'autrice di questo saggio. Grazie Anna, buona serata. Grazie a voi. Simona, arriva una notizia eccezionale sulla 14 Bologna-Padova. C'è una signora di una certa età che col figlio vende mirtilli. C'è una coda di 15 chilometri. È pazzesco, Federico. Sentiamo. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Simona, tu sai imitare la macchina che trita il caffè nei bar? No, assolutamente no. A parte che è un rumore che vorrei evitare di sentire nei bar. È tipo una roba di questo genere. Pazzesco. Ti riesce bene? Mi riesce bene, sì. Ho avuto alcune esperienze lavorative come macinatore di caffè. Allora, per ricordarvi che manca poco più di un mese al nostro concorso. La scadenza è infatti il 30 giugno. e dovete produrre un progetto di macchina, macina caffè, che non faccia quell'orrendo rumore. Ce lo mandate e Faber, che è un'azienda di prima fila nelle tecnologie cuciniere in generale, valuterà il miglior progetto e costruirà il prototipo, cosa molto importante. Tutte le informazioni le trovate sul sito di Radio 24. Esatto, cercate di Mebius e avrete tutte le indicazioni per partecipare al concorso. SPS Parma 23, 24, 25 di questo mese, grande fiera dell'automazione, segnalazione importante per aziende che vogliono utilizzare gli incentivi del piano 4.0, il piano Calenda. Ci sarà uno sportello al quale porre domande. Ma che tipo di domande? Abbiamo incominciato a chiederlo a Marco Vecchio, segretario di Anie Automazione, e poi ne parliamo anche con Gabriele Caragnano, partner operation a PwC. Anie e PwC sono i gestori di questo sportello. Allora, le nostre competenze sono chiaramente molto rivolte alle tecnologie. Certo. Il piano Calenda è ovviamente un piano che si rivolge a delle tecnologie, quindi ci aspettiamo che le aziende vengano a chiederci soprattutto se e come quel tipo di appunto tecnologia che vogliono acquistare per rendere la loro impresa 4.0 ready sia in qualche maniera integrabile all'interno di uno degli strumenti del piano. E quindi c'è chi ci chiede se quel tipo di macchinario, per esempio una macchina per una lavorazione particolare o per un utilizzo particolare in un'azienda, può essere iperammortizzabile, se quel tipo di componente può essere ammortizzabile. Cito per divertirmi il fatto che arrivano delle domande più disparate, da chi ci chiede se un defibrillatore può essere iperammortizzabile, a chi ci chiede che se il rotowash può essere iperammortizzabile, fino a chi ci chiede effettivamente se delle soluzioni o dei componenti o delle macchine effettivamente. Accettate qualunque tipo di domanda, non deve esserci un atteggiamento di ritrosia. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, e voi Canegnano, a che tipo di questioni invece potete rispondere? Ma io mi auguro che la prima domanda che riceveremo sia come fare. Come fare? Noi non siamo dei venditori e degli esperti di tecnologia, ma siamo, io definirei il nostro lavoro quello di integratori. Il nostro compito è quello di migliorare i processi organizzativi, prima di tutto, manageriali, la cultura delle persone, le competenze, e abbiamo una lunghissima esperienza e tradizione nel definire quello che noi chiamiamo il modello operativo. Quindi direi che è fondamentale riuscire a sfruttare il piano Calenda di incentivazione in modo strategico, ovvero sfruttare un incentivo è come sfruttare uno sconto, quindi è un'operazione tattica. Sì. E noi abbiamo approntato un servizio tattico di risposta veloce che risponde alla domanda immediata: il bene è iperammortizzabile, non lo è, può entrare o meno nel pacchetto. Ma subito dopo noi attiviamo un servizio collegato che parte da un assessment della fabbrica, dello stabilimento generalmente, in cui andiamo a capire che cosa c'è di buono già nell'azienda, sia in termini di tecnologie, sia in termini di processi, sia in termini di competenze. Partendo da quello, identifichiamo quelli che sono i principali gap rispetto a delle soluzioni che noi definiamo best in class, che conosciamo bene avendo un network globale, e andiamo a raccomandare all'azienda un percorso, una roadmap, sì, che parta dalla situazione attuale, sfrutti gli investimenti incentivati al meglio e che soprattutto dia una visione sui prossimi 2 o 3 anni. Dove vi si trova SPS Parma? C'è una scritta sotto la quale ci sarete voi due con i vostri staff? Sì. All'SPS c'è l'area all'ingresso della fiera che si chiama Know-how 4.0 e abbiamo il nostro sportello Pronto 4.0. Pronto 4.0. Esatto. Oltre a questo sportello, noi metteremo a disposizione dei tavoli tecnici con già degli esperti operativi presenti per andare un passo oltre. Quindi chiediamo alle aziende di prendere appuntamento in questi tavoli, quindi c'è un servizio web sia sul nostro sito sia su quello di SPS in cui le aziende possono prenotare uno slot di circa un'ora. C'è un sito nel quale prenotare questi incontri? Certamente sì, il sito è www.spsitalia.it. La signora degli abissi, una signora che effettivamente va sopra e sotto gli oceani. Ve ne parla Simona. Dalla prima immersione subacquea negli anni 50 alle impronte lasciate sul fondale a circa 6 miglia al largo e a una profondità di circa 400 metri nel 1979, indossando uno scafandro di Don Jim che ha definito uno dei suoi costumi da bagno preferiti. Questo e altro racconta Chiara Carminati nel libro La signora degli abissi di editoriale Scienza, un libro che ci fa letteralmente immergere nelle profondità degli oceani ripercorrendo le tappe della carriera, dell'avventura, delle oceanografa statunitense Sylvia Earle. Chiara Carminati, una storia affascinante, una scienziata affascinante. Assolutamente sì, perché è stata davvero una pioniera, non solo degli abissi, ma anche ha messo delle impronte, come dire, non solo sul fondale marino, ma anche nella storia della scienza per tutte le donne, oltre che per tutti gli uomini. Infatti si è sentita dire che il fondo del mare non era un posto per donne. Non lo era, come apparentemente non lo erano gli studi universitari, e quando lei si è candidata per far parte di un'equipe che esplorava il fondale marino in una maniera per allora insolita, cioè in un meraviglioso bungalow sottomarino che rimaneva a 15 metri di profondità, per gli scienziati erano invitati a stare lì dentro per 2 settimane e dovevano presentare dei progetti per candidarsi. E Silvia aveva tutte le carte in regola, anzi ne aveva più di chiunque altro per presentare il suo progetto, aveva costituito un'equipe di colleghi studiosi scienziati che avrebbero lavorato in team intorno allo stesso argomento, eppure si è vista rifiutare la candidatura con molto imbarazzo da parte delle istituzioni universitarie che gestivano la selezione, perché non avevano neanche pensato che una donna potesse candidarsi, e quindi per loro far vivere in uno spazio così intimo, costretto, 3 uomini e una donna insieme non gli pareva bello e quindi è stata rifiutata proprio in quanto scienziata donna, perché non era così, non ci avevano pensato, salvo poi, siccome Silvia non si arrende, questo è il bello anche del suo carattere, no? Che è una persona molto tenace, l'anno successivo è riuscita a mettere in piedi un'equipe tutta al femminile, comunque gliel'hanno offerta un'equipe tutta al femminile per poter portare avanti il suo progetto. E di fatto gli abissi marini poi li ha esplorati, e in fondo un po' come ha fatto Jane Goodall per studiare gli scimpanzé, che è andata a vivere in mezzo a loro, Sylvia Earle si è immersa per conoscere le balene, e nel libro lei racconta alcuni incontri ravvicinati. Sì, questa idea di andare nel posto dove stai studiando, che per noi oggi è scontata, in quel momento per quanto riguarda la biologia marina era praticamente una novità. Lei l'aveva ereditata dal suo professore all'università ed si era convinta che, lei studiava le alghe quando ha cominciato, ma si era convinta che per studiare le alghe non era sufficiente fare come facevano i suoi colleghi, cioè che li tiravano fuori dall'ambiente e le studiavano a secco, per così dire, e bisognava immergersi, perché bisognava anche vedere come interagivano le alghe con tutto l'ecosistema di cui facevano parte. Quindi questa idea di andare dentro il mare, che nasceva sicuramente da un suo grande amore per il mare, una curiosità per la natura, ma anche da una nuova prospettiva che portava fuori gli scienziati dal laboratorio e li immergeva, in questo caso letteralmente, nell'ambiente di cui si stavano occupando. Da lì poi sono partite tante esplorazioni, tanti studi che Silvia ha fatto, tra cui quello delle balene, ed è stata proprio lei, insieme a dei colleghi che già da un po' si occupavano dei versi delle balene, del cosiddetto canto delle balene, a fare i primi studi seguendo le balene dal Golfo del Messico all'Alaska, e in un luogo nidificavano, nell'altro luogo andavano a mangiare, e a vedere come cambiava il loro verso nel caso in cui fossero appunto queste meravigliose corteggiamenti amorosi, e anche quanto misterioso fosse, perché ancora oggi il verso delle balene è estremamente affascinante perché ha delle caratteristiche misteriose, ad esempio il fatto che le balene ripetono sempre lo stesso verso cambiandolo leggermente da un anno all'altro, no? Come succede magari con le canzoni popolari che siamo abituati a vedere modificate nel tempo e nello spazio, e così, però sono dei cambiamenti graduali, non è che improvvisamente arriva un altro canto completamente nuovo. Per studiare questo, con i mezzi che c'erano allora, che non sono quelli sofisticati di adesso, gli scienziati sono andati lei stessa quindi a immergersi là dove le balene c'erano e si immergevano in apnea, quindi non andavano tanto in profondità, però la loro idea era quella di non spaventare le balene con le bolle che facevano magari gli autorespiratori, no? Le bombole, e andare il più vicino possibile, talmente vicino che Silvia racconta un incontro ravvicinato che le ha fatto terrore e delizia nello stesso tempo, perché un enorme megattera è risalita dal fondo marino e le è passata così vicino da sfiorarla. Lei dice: ho visto la morte in faccia, ma in realtà con questa enorme pinna da 5 metri la balena non aveva nessuna intenzione di ferirla, altrimenti avrebbe potuto farlo, ma era semplicemente dirle: mi sono accorta della vostra presenza, e tutto sommato va bene così. Nel libro emerge più volte l'amore di Silvia Earle per la natura, la sua passione per tutto ciò che vive sott'acqua e il suo impegno per salvaguardare la biodiversità degli ecosistemi marini messi a dura prova da noi umani. È corretto descriverla come una sorta di portavoce degli oceani? È così infatti che viene chiamata. Uno dei suoi motti preferiti è: niente blu, niente verde, cioè se non proteggiamo l'oceano tutto il resto della vita sulla Terra va a scatafascio. Infatti senza l'acqua niente vita, senza blu niente verde, lo ricorda spesso, è un appello che fa e che ha fatto anche nel 2009 quando ha vinto il premio TED e con i fondi ricevuti ha fondato l'organizzazione no profit Mission Blue proprio per salvaguardare il cuore blu del pianeta. Con Mission Blue Silvia, che non è da sola chiaramente, ha tantissimi collaboratori adesso, intende non solo sensibilizzare tutte le persone, cioè non soltanto i politici, chi ha proprio la possibilità di fare delle azioni in grande, ma anche tutti noi che abbiamo delle possibilità di fare delle azioni in piccolo per la salvaguardia degli oceani, e intende sensibilizzare tutti appunto a quali sono le piccole e grandi cose che si possono fare per la protezione degli oceani. Silvia ha una grande capacità comunicativa e anche se si vuole guardare il video del TED Prize ci si rende conto di quanto riesca a parlare in maniera semplice, profonda, ironica di temi che sono molto importanti. E nello stesso tempo con questa Mission Blue, oltre all'aspetto della divulgazione che comunque è molto importante, Silvia si batte con tutti i governi del mondo per rendere protette alcune aree naturali che in questo momento stanno davvero rischiando la vita. È davvero uno dei lavori più belli che si possa fare. In effetti c'è un mondo da scoprire laggiù. Buona settimana a tutti. E a tutte.